Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di storie di mezzogiorno. L'anno che si è concluso è stato il 150enario, segnato anche da molte polemiche, soprattutto al sud, da tanti autori revisionisti che hanno protestato e hanno rivendicato la grandezza del regno borbonico e l'infamia della conquista da parte dei Savoia. E allora, per rimettere ordine in questo dibattito, vi segnalo il libro di Gianni Oliva intitolato Un regno che è stato grande, la storia negata dei Borboni di Napoli e Sicilia. È pubblicato da Mondadori, 278 pagine, 20 euro. Il libro di Oliva non è un libro revisionista, lui stesso sottolinea come ci sia stata in passato una forte componente di rivalsa regionale che ha portato all'accettazione di tesi talvolta estreme. Da queste tesi Oliva si allontana, l'autore vuole metterci a disposizione una riflessione nuova, come la chiama, per ricordare l'evoluzione o l'involuzione di una dinastia che ebbe comunque momenti di grande nobiltà e splendore. Ma sentiamo appunto l'autore. Buongiorno a Gianni Oliva. Buongiorno a voi. E Gianni Oliva, lei nel suo libro, nelle prime righe, scrive come ci sia stata di recente una forte componente di rivalsa regionale che ha portato all'accettazione di tesi talvolta estreme a proposito dei Borboni. Non vuole fare un libro revisionista, quindi, però sottolinea appunto che c'è la presenza di queste spinte. Ecco, la sua riflessione nuova, come la chiama nel suo libro, a che conclusioni porta sui Borboni? Allora, io parto dal principio che quando la storia viene scritta dai vincitori ha un vizio di arroganza, e però quando viene riscritta dai vinti ha un vizio di rancore. E tra la vecchia storiografia liberale risorgimentale che descriveva i Borboni come il regno del male, dell'ignoranza, della conservazione, e la letteratura neoborbonica che al contrario ha ribaltato quel giudizio guardando e vedendo nel sud soltanto le luci e le promesse, io credo che la visione più giusta, quella storicamente più appropriata, sia una visione di equilibrio che individua nella storia della presenza borbonica a Napoli dei periodi positivi di trasformismo e di modernizzazione, tanto perché quando i Borboni arrivano a Napoli nel 1734 per la prima volta si ha un regno indipendente e autonomo nel sud dopo secoli di colonizzazioni straniere. In secondo luogo perché lo sforzo dei Borboni è quello di creare uno Stato moderno con il potere centrale che si afferma sui particolarismi feudali, con alcuni sforzi che paradossalmente sembrano quasi attuali, tipo quello di fare pagare alla Chiesa le tasse per i beni di cui è proprietaria del sud. Viene coltivata e stimolata una classe intellettuale, espressione del ceto medio, che porterà per esempio l'Università di Napoli nel 1754 a essere la prima università europea, e quindi la prima università al mondo, ad istituire la cattedra di economia e commercio. Questo percorso, processo virtuoso, si interrompe negli anni della Rivoluzione francese, quando a Napoli, 1799, nasce una repubblica giacobina sostenuta dalle armi e dalla presenza militare francese che costringe i Borboni ad abbandonare Napoli per Palermo e che in qualche modo interrompe il circuito del dispotismo illuminato, delle riforme calate dall'alto. Quando i Borboni ritornano a Napoli hanno della rivalsa nei confronti dei rivoluzionari, in particolare la regina Maria Carolina, che è la sorella di Maria Antonietta di Francia, quella la regina ghigliottinata dei rivoluzionari, e hanno un ispiratore politico che è l'ammiraglio Nelson, il quale è ferocemente determinato a stroncare qualsiasi forma di ribellismo nel sud dell'Italia, perché il controllo della Sicilia e l'influenza inglese sul meridione sono la garanzia del potere dell'egemonia navale e militare britannica sul Mediterraneo. Di qui una repressione durissima che porta a oltre 500 esecuzioni capitali, ma esecuzioni che coinvolgono il fior degli intelletti meridionali, che segnano in qualche modo la frattura tra la classe dirigente e il ceto medio del sud e i Borboni. Ecco, fermiamoci su questo. Questo non fu l'unico momento di crisi. Ci sono stati dei momenti di grande importanza e di grande interesse che lei giustamente sottolinea e illustra, però non le sembra che complessivamente i Borboni abbiano sempre perso le grandi occasioni? I Borboni hanno perso, secondo me, due grandi occasioni. Una nel 1799, quando attraverso questa repressione si tagliano i ponti, almeno per un certo periodo, con la classe media. Ma l'altro, ancora più grosso, nel 1848. perché le politiche di riforme che vengono riprese negli anni 20 e negli anni 30 dell'Ottocento, che portano per esempio ad avere a Napoli la prima ferrovia, cioè la Napoli Portici del 1839, non a caso è la prima ferrovia, il primo tratto ferroviario d'Italia, è il, come dire, la spia di un'attenzione, di un intervento alla modernità che in quel paese spirava. Però queste riforme, queste attenzioni creano una classe media che non può rimanere al di fuori della gestione del potere politico, che poi chiede riforme, chiede che dall'assolutismo si passi a quelle forme di statuti liberali che sono stati rivendicati da più parte. Ecco, la grande sfida persa dai Borboni è quella del 1848. Guarda che fino ad allora molti dei patrioti italiani immaginavano che a guidare il Risorgimento potesse essere molto di più Ferdinando II delle Due Sicilie che non Carlo Alberto del Regno di Sardegna. Appunto, un'occasione perduta. E lì nel 48 un ruolo importante l'ebbe la Sicilia. Lei sottolinea spesso questa scheggia, diciamo, autonoma, impazzita del Regno delle Due Sicilie, cioè la Sicilia vera fu una fonte di contrasto importante durante la storia del Regno. La Sicilia era un territorio che rivendicava la sua autonomia da Napoli, per cui i re tendenzialmente erano incoronati sia a Napoli sia a Palermo e avevano titoli diversi. Per esempio, il fondatore della dinastia borbonica era Carlo VIII re di Napoli e Carlo VII re di Sicilia, la stessa persona, ma aveva due titoli e due numerazioni. La Sicilia ha sempre rivendicato questa autonomia nei confronti di Napoli e, a secondo dell'abilità dei regnanti, questa autonomia è stata utilizzata per sostenere le ragioni della monarchia o è stato invece un elemento di contrasto. Nel 1848 la scintilla che scatena poi la rivoluzione di tutta Europa parte proprio da Palermo, ed è una rivoluzione tale che tra l'altro ancora oggi è sedimentato nel linguaggio l'espressione "è scoppiato un 48", no? Ad indicare l'eco internazionale che ha avuto quello che è accaduto. È partito da Palermo, la risposta di Ferdinando II è stata quella di Borbone, è stata quella di reprimere duramente queste rivolte e rivendicare il diritto all'assolutismo regio. L'intelligenza da parte dei Savoia è stata invece quella di abbracciare la via liberale, mantenere lo statuto, e così Torino diventa la capitale delle teste migliori dell'Italia del tempo e del Risorgimento. Lei ricorda nel libro il giudizio molto positivo che Croce dà della Napoli illuminista, poi però il giudizio di Croce si fa più duro col passare degli anni nel regime dei Borboni. Beh certo, perché ci sono due fasi, un conto della Napoli tra il 1734 e il 1799, credo che Carlo di Borbone in particolare sia stato il maggior principe italiano di quell'età, di quella stagione, e altra è il giudizio sul periodo successivo. Nella seconda metà del Settecento la capitale che contava in Italia era Napoli. Quando si parla di illuminismo italiano si parla di Napoli con Genovesi, con Galanti, con Filangieri, oppure si parla di Milano, ma siamo nell'ambito di uno Stato governato dagli austriaci. Non si parla certo di Torino. L'unico intellettuale del secondo Settecento a Torino è Vittorio Alfieri, che prigiona tutte le sue energie per scappare da Torino. Ed essendo un nobile deve avere il permesso del re, quando il re Vittorio Medio III glielo concede, scrive sul suo diario: "E ci siamo lasciati, felice lui di perdermi, felice io di trovarmi". Questa è l'atmosfera torinese di quel periodo. A Napoli invece, ripeto, c'è la prima carta di economia e commercio, ci sono intellettuali come Filangieri che hanno rapporti con i rivoluzionari americani per l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, c'è il Galliani che sta a lungo a Parigi e in corrispondenza continua con Diderot, cioè c'è un inserimento in un circuito internazionale positivo in quella stagione, però, di riformismo illuminato, cioè di riformismo che scende dall'alto, non che nasce dalle piazze. Nel momento in cui le piazze si muovono, a Napoli scatta la repressione e in qualche modo attraverso quelle scelte i Borboni si sono un po', tra virgolette, suicidati da un punto di vista politico. Bene, grazie a Gianni Oliva, autore di Un regno che è stato grande. Buona domenica. Un libro profondamente terronista, invece l'ultimo di Pino Aprile, Giù al Sud, perché i terroni salveranno l'Italia, pubblicato da PM, 474 pagine, 19,50 €. Il libro è un lungo viaggio nel sud per descrivere quello che non sappiamo. Il sud, scrive Aprile, non ha voce o voci piccole e sparse, e questo fa sì che non sappiamo che lì qualcosa sta accadendo. Scrive Aprile, l'onda si sta alzando, gli animi si scaldano al sud e i sentimenti sono il vento che muove quegli uomini, anche a popoli interi. C'è un sud, aggiunge, che sta perdendo la subalternità per la tenacia con cui una sparuta catena di padri ha inseguito la propria storia denigrata e taciuta. E fra questo sud che sta alzando la testa ci sono, aggiunge l'autore, molti giovani, non quelli che vanno via ma quelli che restano e che sempre più spesso agiscono a casa propria, come a Barcellona o a Londra, local and global, universali, stando a Milazzo. Non c'era mai stata una generazione così. La cronaca di aprile è resa possibile da una specie di pellegrinaggio dell'autore in tantissime località del sud, spesso sperdute, dove è stato chiamato a presentare il suo precedente libro, Terroni, che ha avuto un grande successo. Questo libro dà voce all'interpretazione forse più revascista, secondo la quale il Nord dal 1860 a oggi avrebbe penalizzato e mortificato il Mezzogiorno. In ogni caso si tratta di un libro appassionato, documentato e che pone problemi seri come quello dei continui ritardi anche nella dotazione di infrastrutture del Sud rispetto al Nord. E di questo parla Aprile nelle righe che vi propongo. Che paese avremmo se l'industria calabrese e napoletana avesse potuto seguitare a svilupparsi? Le ferrovie dette dello Stato corressero pure al sud e non solo al centro-nord. Le autostrade italiane rendessero raggiungibile velocemente pure il sud. Gli aeroporti non fossero talmente tanti al nord da risultare a volte inutili e così pochi al sud da rendere irraggiungibili intere subregioni, quali il Salento, il Cilento, la Lucania intera, gran parte della Calabria, la Sicilia sud-occidentale, il Molise, l'Abruzzo e la Campania interna. Se il credito e i servizi bancari avessero lo stesso costo in tutto il paese e non tariffe più alte per servizi peggiori al sud, il Mezzogiorno non fosse la più grande area europea senza grandi banche, l'elettricità prodotta al sud costasse almeno quanto al nord, dove viene dirottata e non di più, e la fornitura elettrica fosse affidabile a sud come a nord e non ballerina, con rischi enormi per i macchinari e danni alla produzione. Cosa sarebbe, dove sarebbe l'Italia se fosse stata equa o solo furba? Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ci eravamo lasciati parlando di sud, e di sud si parla per esempio nel libro intervista ad Alberto Quadrio Curzio, curato da Stefano Natoli, che è un giornalista del Sole 24 Ore, il giornale dello stesso gruppo al quale appartiene questa radio. Il titolo del libro è Economia oltre la crisi, è pubblicato dalla Scuola, 210 pagine, 12,50 euro. Nel libro Quadrio Curzio analizza la crisi e le prospettive dell'economia italiana e parla anche appunto di Mezzogiorno, dopo aver ricordato come sia inaccettabile un dualismo così accentuato, che è anzi il più forte in tutta l'Europa, tra aree ricche e aree povere. Quadrio Curzio auspica perciò una progettazione di lungo periodo, fatto di interventi costanti capaci anche di utilizzare sempre meglio i fondi strutturali europei. Il Sud, aggiunge, potrebbe avviarsi verso uno sviluppo concreto, duraturo e sostenibile se si riuscissero ad attuare politiche che potenzino le sue infrastrutture per il trasporto e il commercio. Come osserva Romano Prodi nella prefazione al libro, questo libro è utile ai non specialisti, soprattutto ai giovani, ai quali il colloquio vuole spiegare quale possa essere l'impatto della crisi che stiamo vivendo sulla vita e le prospettive di tutti noi. Il libro, osserva Prodi, cerca proprio di aiutarci ad andare oltre quel tecnicismo che ha finito col confinare la conoscenza economica a una ristrettissima minoranza di specialisti, e quindi si parte dalle basi dell'economia, dalle grandi figure della storia economica, per entrare poi nel vivo della situazione attuale, della crisi e della stessa crisi del capitalismo. Poi si parla di Europa, di euro, d'Italia, e a proposito di euro, Quadrio Curzio conferma la propria fiducia in questo strumento. Se l'Italia uscisse dall'euro, quella prospettiva sarebbe disastrosa per il nostro paese, aggiunge. Insomma, questa è una guida preziosa anche alla luce dei cambiamenti geostrategici che vedono affacciarsi nuove realtà, non soltanto la Cina, ma per esempio il MENA, la sigla con la quale si identificano i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Ricetta finale, ricetta complessiva che indirizza l'analisi di Quadrio Curzio è il liberalismo sociale, che secondo l'autore dovrebbe portarci fuori dalle secche. Un assetto, quello del liberalismo sociale, nel quale conta anche il rispetto e la promozione della persona, dei valori spirituali, culturali e civili della comunità di riferimento, la valorizzazione dell'autonomia e della capacità creativa di tale comunità nelle sue varie articolazioni, tra cui quella sociale e quella economica, che non può funzionare senza l'impresa e il mercato. Uno dei maestri ai quali si riferisce Quadriocurzio quando parla del liberalismo sociale è Luigi Einaudi, che ritroviamo in tre libri recenti. Il primo è curato da Angelo Sant'Agostino. Luigi Einaudi, una visione liberale a guida della storia, 338 pagine, 30 euro, pubblicato dalle edizioni Giuseppe la Terza. Questa è un'operazione intelligente perché vuole divulgare il pensiero di Einaudi anche fuori dell'Italia, soprattutto al mondo anglosassone. Perciò tra i molti scritti contenuti nell'antologia troviamo molti scritti in inglese. Molto attuali sono questi scritti, che sono quelli dedicati al tema dell'europeismo. Einaudi sembra affrontare temi di oggi quando parla del federalismo e degli errori che purtroppo sono stati commessi con l'euro, che invece si sarebbero potuti evitare. E il saggio finale di Angelo Sant'Agostino ripercorre i momenti importanti dell'europeismo liberale, rivendicando l'importanza di questo filone che è stato costitutivo e significativo nella redazione dei trattati che hanno dato vita all'Unione Europea. Proprio di questo filone si trova traccia, aggiunge Sant'Agostino, proprio nel caso dell'economia sociale di mercato. Un'altra raccolta di scritti di Luigi Einaudi, intitolata Il lodo del profitto e altri scritti, curato da Alberto Giordano per IBL Libri, l'edizione dell'Istituto Bruno Leoni, 158 pagine, 18 euro. Questa è un'antologia invece dedicata ai fondamenti del pensiero di Einaudi, uno dei maestri del liberalismo economico, sensibile soprattutto a sottolineare il valore etico e sociale del mercato. Come spiega infatti il curatore, il sistema basato sulla libertà di iniziativa consente soprattutto agli individui di accedere il più autonomamente possibile a qualsiasi professione si desiderano intraprendere come strumento di autodeterminazione economica ed elevazione morale. Il lavoro viene quindi concepito non solo come mezzo di sussistenza, ma come fonte di crescita e gratificazione personale. E qui troviamo alcune delle pagine più significative per accostarsi al grande economista, forse più citato che conosciuto. E infine un altro grande classico di Luigi Einaudi, Il buon governo, saggi di economia e politica 1897-1954, pubblicato questo dalla Terza, 632 pagine, 29 euro. Questa è una scelta che fece Luigi Einaudi, raggruppando in vari capitoli molti suoi scritti della sua lunghissima carriera accademica e politica, e ci sono qua i tratti fondamentali del suo insegnamento nei capitoli dedicati al mercato e alla concorrenza, alla scuola, ai sindacati, al lavoro, ai monopoli, con molte proposte che purtroppo sono rimaste inattuate ma di cui si continua a parlare anche in questi giorni, per esempio quello dell'abolizione del valore legale del titolo di studio e dell'abolizione dell'ordine dei giornalisti, al quale peraltro io stesso appartengo. Un'altra testimonianza del pensiero liberale in economia è quella dell'inglese Henry Hazlitt, di cui sempre IBL, l'Istituto Bruno Leoni, libri, pubblica L'economia in una lezione, capire i fondamenti della scienza economica, 212 pagine, 18 euro, tradotto da Carlo Loptieri e Pietro Monsurro. Questo è un libro del 1946 che ebbe allora un enorme successo e che cerca di rimediare ai tanti errori denunciati dall'autore, riconducibili sostanzialmente al fatto che trascuriamo un principio fondamentale che egli sintetizza così: l'arte della politica economica sta nel prevedere tutte le conseguenze, non solo immediate ma anche lontane, di ogni programma e provvedimento, nel considerare non solo le conseguenze su una parte della società ma sull'intera collettività. E questa lezione viene declinata in varie applicazioni, dalle tasse al lavoro, all'impresa, alla burocrazia, ai dazi, all'inflazione, al risparmio, per capire appunto che ogni scelta che si fa ha delle conseguenze spesso inaspettate che tuttavia bisogna considerare sempre. Infine, sempre per accostarci con un tono divulgativo all'economia, vi segnalo di Joran Baumann L'economia a fumetti, illustrato da Grady Klein, pubblicato dal gruppo 24 ore, la società che appartiene allo stesso gruppo editoriale di questa radio, 228 pagine, 19 euro, tradotto da Fabio Galimberti. Questo volume è dedicato alla macroeconomia attraverso una serie di strisce ironiche e divertenti che ci fanno capire i grandi movimenti dell'economia, i fondamenti della politica monetaria, che cosa sia l'inflazione, il PIL, come funzionano gli scambi internazionali e tanti altri aspetti che rendono meno grigia la scienza economica. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di mercati, sul mercato si può trovare di tutto, anche un rinoceronte, per esempio quello che vediamo nel libro Chi vuole un rinoceronte a prezzo speciale di Shel Silverstein, tradotto da Paola Splendore, ma c'è anche il testo in inglese, è pubblicato da Orecchia Cerbo, 18 euro. I tanti usi giocosi troviamo in questo libro di un pachiderma che conviene davvero tenersi in casa.